18 e 36 minuti, rieccoci, Popline Estate, questa settimana co-condotto da Milano e da Genova. 10 anni del G8 2001, adesso Federico possiamo dedicarci con più calma a Genova. Certo Omar, come dicevamo anche oggi, intorno a quest'ora diamo spazio alle voci dei ventenni di oggi, insomma i ragazzi e alle ragazze che hanno l'età di Carlo. Un viaggio in 6 città italiane di Popolare Network per capire se esiste una memoria di Genova 2001, se è rimasta traccia delle violenze delle forze di polizia commesse in quei giorni. Oggi andiamo a Milano con Eleonora Brianzoli. Genova, 20 luglio 2001. È stato ucciso dalla polizia, credo. Che dicono si sia suicidato, ma non è così. Cioè, dicono che hanno quasi che hanno buttato giù mentre lo tenevano per una dichiarazione, una confessione, diciamo. Cos'era? Sulla strage di Piazza Fontana? Il vento è cambiato, ma che fine ha fatto l'eredità dei No Global? I ventenni di oggi credono ancora in un altro mondo possibile? E cosa sanno di quello che è accaduto a Genova 10 anni fa? Siamo andati a scoprirlo nelle università di Milano. Mi ricordo ero molto giovane all'epoca. Sì, però eravamo molto giovani tutti quanti nel 2001. Sì, avevamo 11 anni. Ma io ero piccola nel senso che avevo 11 anni. Però mi ricordo che dicevo... che mi ricordo un'immagine di questo qua che alzava sto estintore, glielo stava buttando addosso al carabiniere, no? Diceva per forza quello gli è passato sopra, però capito, cioè non sapevo tutta la storia del No Global. 11 anni, troppo piccoli, dai. Sapete cosa è successo a Genova nel 2001? No, non so cosa è successo. No, nel senso che non lo so, non è... No, al momento non mi viene in mente niente. No. Per una manifestazione forse, che ci sono stati dei disordini. Ho sentito qualcosa del genere, però non so bene nel preciso. A grandi linee. No. Forse, qualcosa. Sostanzialmente quello che hanno detto in televisione, più che altro mi ricordo la questione dei Black Bloc che avevano devastato un po' tutto e avevano fatto un gran casino. C'è stato il G8 nel 2001 a Genova e c'è stato un aspro scontro tra poliziotti e manifestanti, in particolare i poliziotti hanno esagerato contro i manifestanti, arrivando anche ad atti di estrema violenza, andando per esempio a prendere la scuola di Diaz in mezzo alla notte e a pestarli senza motivo alcuno. Sai cosa è successo a Genova nel 2001? Sono stati degli scontri, sì, scontri Black Bloc. Hanno spaccato vetrine su vetrine, solo quello mi ricordo. Colby. Allora, mi ricordo che era morto quel ragazzo lì, che era dalla... com'è che si chiamavano quelli? I No Global. Era uno dei No Global e era stato ammazzato da un carabiniere, mi pare, che gli era passato sopra. Il G8 mi pare, sì. Con i vari pestaggi di stampo semifascista, sì, direi. Proprio ieri, quella che avevi detto della scuola che avevano messo la canzone degli After Hours. Sì. Mentre sono entrati di notte a picchiare la gente nei sacchi a pelo. Sapete cosa è successo a Genova nel 2001? Sì, lo suppongo. Il G8. Cosa vi ricordate del G8? Che un ragazzo ci ha lasciato le penne. E scontri, cioè così, molto violenti. Il G8, stai parlando di questo? E le varie stragi e combattimenti, guerriglia che c'è stato dietro questo evento. In particolare la scuola Diaz. Beh, G8, tutta la faccenda Black Bloc e quant'altro, nel senso. Probabilmente i poliziotti si sono divertiti a picchiare un po' di gente a caso. Un ragazzo, mi pare, con l'estintore. Morto perché un poliziotto ha sparato un colpo in aria, probabilmente. E poi niente, ci sono stati forse raduto gruppi di infiltrati tra i tra i protestanti. I poliziotti hanno soppresso questi gruppi e poi hanno aggredito probabilmente anche gente molto tranquilla che era lì pacificamente. Che degli scontri hanno fatto un po' di casini, cioè hanno fatto dei casini a Genova perché si erano trovati i capi di stato del G8. Sai cosa è successo a Genova nel 2001? Sì, vabbè, il G8, gli scontri del G8. Io mi ricordo della manifestazione che c'è stata, vabbè, che poi la polizia ha picchiato i ragazzi. A scuola. Non so, G8, scontri, Carlo Giuliani, violazione dei diritti costituzionali, decisioni che hanno in qualche modo influito sul corso degli eventi mondiali e un movimento anche nato, si può dire. Perché manifestavano? Diciamo delle manifestazioni contro un certo modello di globalizzazione diretto da pochi, negli interessi di pochi, a favore di una globalizzazione democratica e sociale, diciamo, ecco. Perché stanno manifestando? No, non mi ricordo questo. La globalizzazione globale. Ma perché c'è il G8, no? Sapete perché stava manifestando? Il dissenso verso le possibili decisioni della riunione. Contro i potenti della terra, in quanto si radunavano per parlare delle politiche economiche e monetarie di quel periodo. La manifestazione era col G, era contro il G8, contro la riunione di queste super potenze mondiali e di preciso non mi ricordo, però. La globalizzazione capitalista, tipo queste robe qui. Sì. Contro questo tipo di globalizzazione proposto dai governanti del G8, diciamo, che non fanno sedere a un tavolo le persone interessate alla globalizzazione. Manifestavano contro appunto il G8, che è la riunione di queste 8 potenze mondiali che sono praticamente i fautori della globalizzazione. Quanti anni avete? 22. 22. 23. 20. 21. 20. Sapete chi è Carlo Giuliani? Aspetta. Manifestante che è stato ucciso dalla polizia, credo. Che dicono si sia suicidato, ma non è così. Cioè, dicono che hanno buttato giù mentre lo tenevano per una confessione, diciamo. Cos'era? Sulla strage di Piazza Fontana? Sai chi è Carlo Giuliani? Sì. Ho per sentito dire e so che esiste. Che è esistito. No, non mi dice niente il nome. Non lo so, so che è un personaggio. No, non lo so, l'ho sentito il nome, ma non. Giuliani è il ragazzo che è morto schiacciato dalla camionetta dei carabinieri. Sì, il ragazzo che è stato ucciso. Non si sa ancora bene in che situazione, da un carabiniere era? È stato ucciso da un carabiniere che gli ha lanciato il polo estinto e l'ha preso in testa ed è morto. Carlo Giuliani è un ragazzo vittima del sistema. Sai perché era in piazza a manifestare? Contro il sistema. E tu adesso per cosa manifesteresti? Per vendicarmi. Per cosa scendereste in piazza adesso, dopo 10 anni da Genova? Troppe cose. Talmente tante che ultimamente sono un po' restio. Quando ci si rende conto che poi non si ottiene niente, alla fine ci si disillude e si cade nel dire, ma se anche ci vado io cosa cambia? Io non scenderei in piazza per nulla. Scenderei in piazza per... questa è una bella domanda. Su due piedi non saprei risponderti. Ma prima tu non scenderei in piazza, cioè in sé? Sicuramente non scenderei in piazza, cioè non mi interesserebbe scendere in piazza. Il problema di scendere in piazza, se posso dirlo, è che quando scendi in piazza sai sempre perché scendi, ma non sai con chi scendi. E questo è un problema che tante volte a me non mi fa scendere in piazza. Tu per cosa scenderesti in piazza a manifestare adesso? Diciamo per chi ci governa, che insomma non è molto... cioè non mi piace la classe politica che abbiamo. Ora come ora, purtroppo... per nulla, ci sono varie motivazioni. Prima ci credevo di più e ho partecipato attivamente a molte cose. Poi pian piano mi sono resa conto che alla fine non c'è coesione tra chi va a manifestare. Il 90% delle persone che ci va un po' a caso, tanto perché va di moda, soprattutto tra gli studenti, tra i miei coetanei, e quindi ora come ora ogni manifestazione cade un po' nel nulla. Ma perché forse non c'è un movimento di fondo reale. Cioè, certe volte mi sono ritrovata a sentirmi come se stessi perdendo tempo. Oggi forse scenderei in piazza per l'Italia, per sistemare un attimo quello che sta succedendo in Italia. Ovvero, a cacciare Berlusconi magari, non sarebbe male. Iniziare da quello. Contro il razzismo. A scuola io sono sceso più volte, contro il governo in generale, e anche per i diritti delle donne sono andato. Per la legalizzazione della marijuana. Sono troppe cose per cui bisognerebbe scendere in piazza. Non lo so, la scuola è una di quelle, l'istruzione. Sì, sulla riforma Gelmini. Università, tanto per incominciare. Mancanza di fondi, dobbiamo dare un esame diviso in 3 giorni praticamente perché abbiamo solo un professore, tanto per incominciare. Sta lavorando gratis per noi. Quando usciremo non si sa cosa faremo. Abbiamo un presidente del consiglio che dice delle e fa delle cose atroci. Abbiamo il Brunetta che dice che noi siamo la peggio Italia, capito? Abbiamo tante cose da manifestare. Per un sacco di cose, ma sai, soprattutto per quanto riguardava la scuola, ma perché chiaramente ci tocca più da vicino. Sinceramente come giovane direi per qualcosa sul mio futuro, tipo il lavoro. Ma boh, se fosse per una cosa un po' più lontana da me, comunque mi riguarda, per qualcosa che non viene fatto dal governo, se fosse proprio per un'altra cosa ancora più lontana, per le guerre nel mondo, che sinceramente ogni volta portano via sempre qualcuno. Le 18:51, Popline, Milano-Genova, queste le voci raccolte a Milano da Eleonora Brianzoli.